e manda persone come quelle che tu conosci, insomma, a minacciare fisicamente gli Certo, fanno molto paura assolutamente i sicari di Sellerio. Prima facevamo riferimento a Camilleri e a Montalbano, no? Ormai c'è tutta questa mitologia dell'ultima puntata di Montalbano, sì, che è stata scritta, eccetera, che è custodita, sì, va bene, lo sappiamo. Ma Manzini ha già pensato a come finirà il suo Rocco Schiavone o ancora troppo presto? No, non ci ho pensato. Finché mi diverte scriverlo, non ci vorrei pensare. Poi quando, se mai dovesse venirmi a noia, ma non credo, perché per adesso mi diverto tanto, allora mi dovrò far venire un'idea, per adesso non ce l'ho. A quando invece il prossimo Rocco Schiavone, diciamo, originale? E il prossimo Rocco Schiavone dovrebbe uscire a quest'estate. Non so se luglio, boh. Vabbè, insomma, lo aspettiamo con ansia. Io pure. Soprattutto gli ascoltatori, i lettori e i sicari di Sellerio. Loro stanno a casa mia fissi, per cui non posso sgarrare. E questo era Antonio Manzini che ci ha parlato di 5 indagini romane per Rocco Schiavone pubblicato da Sellerio. Vi cito anche altri romanzi con protagonista Schiavone se siete appunto appassionati di questo personaggio. Pista Nera, La Costola di Adamo, Non è stagione, Era di maggio, tutti pubblicati da Sellerio appunto. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il cacciatore di libri. Ho sposato una vegana, una storia vera purtroppo, pubblicata da Einaudi e scritta da Fausto Brizzi. Fausto Brizzi, famoso, insomma, regista per esempio di Notte prima degli esami, sceneggiatore cinematografico, anche scrittore. In questo piccolo romanzo tu racconti proprio la tua storia vera dell'incontro con la tua attuale moglie, che è vegana, quindi ha avuto uno scontro, come dire, proprio fra due pianeti diversi, e non uso il termine a caso perché tu, come tutti noi figli degli anni 70, inizialmente la parola vegano la associavi a UFO Robot. Ovviamente a Actarus, che ci difendeva dall'attacco delle forze di Vega. E in realtà è come se fosse un onnivori contro vegani questo libro, in cui io non prendo le parti di uno dei due, semplicemente esploro. Io sono l'onnivoro che entra nel mondo dei vegani, comincia a esplorarlo, ne capisce la bontà del messaggio, ne fatica all'inizio a seguire, insomma, l'alimentazione, ma soprattutto mia moglie non è solo vegana, mia moglie è anche salutista, insomma, è quello, il problema principale è quello. Fosse solo vegana, cioè in questo momento io sto facendo, secondo lei, la preparazione per le Olimpiadi di Rio 2016, a cui peraltro non mi hanno convocato, insomma, per... Diciamo che tu ti fai sottoporre anche a delle torture piacevolmente, nel senso che ti fai preparare dei beveroni allucinanti con delle sostanze assurde, insomma, fai anche il digiuno, hai fatto per un periodo il crudista, ti sei depurato, ma tutto questo per amore o per convinzione? Perché mi dice che è per il mio bene, cioè lei mi lanta che è per il mio bene, e sai qual è il problema? Che poi quando faccio le analisi, c'ha ragione lei. Cioè, migliorano le mie analisi del sangue. Tu pensa che l'ultima analisi che ho fatto, il problema era che avevo il colesterolo troppo basso. cioè che era sotto il minimo, che nessuno in Italia credo abbia il colesterolo sotto il minimo. E questo perché mangiavi vegano. E quindi per una settimana io mi sono potuto sfondare di qualsiasi cosa che rimettesse del colesterolo dentro il mio organismo, ma lo facevo come medicina. Questo è un libro veramente molto divertente, io ho riso tantissimo, è un libro che si legge con grande piacere, tu racconti proprio vita vera, si capisce, ma lo fai col tuo stile molto ironico. Il primo appuntamento con Claudia, quella che poi diventa tua moglie, tu organizzi, cioè ci metti un po' di tempo per riuscire a ottenere questo appuntamento, e in che ristorante la porti? In un ristorante famoso per le mozzarelle di bufala e i salumi di cinta senese, insomma. E il problema è che io non lo sapevo, cioè non, lei pensava che fossi dominio pubblico, che in qualche modo ce l'avesse stampato in fronte, sono vegana, ma non è così. E durante la cena, solo quando mi vede ingozzarmi di squacquerone e speck, lei mi dice: a proposito, io sono vegana. E io non è che fossi preparatissimo, stiamo parlando di 4 anni fa, insomma i vegani erano meno di moda di adesso, ero abbastanza impreparato, io avevo capito che erano una specie di vegetariani, insomma, e invece no, erano molto... Non mangiano anche le uova, tutti i derivati, insomma non fanno soffrire gli animali. Sì, sì, sono molto più... e soprattutto rispetto ai vegetariani in generale sono un po' più aggressivi, cioè vogliono fare proselitismo. E io gli ho detto, ma farlo in un'altra maniera, insomma, anche nel libro suggerisco a tutti i vegani di dire: non diventate vegani, diventatelo per 12 pasti a settimana su 14. Già abbiamo salvato il pianeta se lo diventiamo per 12 pasti su 14. Beh, il ritratto che fai di tua moglie Claudia nel libro è proprio una talebana, cioè nel senso che inizia ad importi tutta una serie di regole ben precise e insomma anche con un certo piglio. Sì, sì, lei è assolutamente integralista su questo. Se lei vede una persona che mangia un kebab, va lì a spiegargli come quell'agnello avesse una mamma, una famiglia, diritto a vivere quanto noi, che alla fine tu stesso con sto kebab in mano ti senti in colpa, sai, il morso ti rimane a metà, perché lei te lo dice in una maniera così convinta, così strappalacrime, che non c'è niente da fare. Io la prima volta sono entrato nella sua macchina, lei mi ha detto: scusa, sei un po' sporco, siamo appena andati con dei miei amici a salvare gli agnelli dai macelli e li abbiamo trasportati nella macchina dove io stavo entrando. Ho detto: ah, vabbè, perché tu fai questo come hobby? Sì, a volte. Una delle scene più divertenti è quando una mattina tu scopri tua moglie Claudia che sta brucando letteralmente da una pianta. Cioè, cosa mangia? Era un'erba particolare che aveva comprato negli Stati Uniti, cioè, non so, un tipo, sembrava erba normale, erba gatta sembra, cioè, però è una cosa speciale, e lei dice che si ossida se non la prendi direttamente dal vaso, e di conseguenza lei la prende dal vaso. Mi ha convinto anche a me a farlo una volta, e così ho scoperto una cosa tipo super quark, che noi non abbiamo la dentatura adatta a strappare l'erba, cioè che si infila, cioè non abbiamo la dentatura per la lattuga iceberg ma non per l'erba normale da mucca, insomma. Ormai essere vegani, vegetariani è diventato insomma una cosa abbastanza comune. Invitare qualcuno a cena è diventato un incubo. A me è capitato una volta di dover invitare a cena una vigittica. Tu sai cos'è una vigittica? Una vigittica? No, mi manca, la metto nel sequel del libro. Vigittica è la vegetariana che però mangia pesce. Tu adesso... Ah, pensa che noi, cioè io lo chiamo volgarmente pesciariani. Che come più o meno sono io, insomma, ecco, quindi beh, io sono vigittico. Tu sarai vigittico in questo caso, vedi, hai una definizione, puoi darti un nome. Definizione, sono un vigittico, mi piace il pesce, sì, lo ammetto, la carne non la mangio più, mi ha convinto Claudia, il pesce però ogni tanto cedo, insomma. Ma è cambiata anche la vostra vita sociale, per esempio, come si fa ad andare al ristorante essendo proprio integralmente vegani o anche a cena dagli amici? Beh, i ristoranti dove andiamo da soli sono super selezionati, super bio, eccetera. Gli amici ormai sanno, cioè all'inizio c'è stato un po' di caos, ormai hanno le istruzioni. Quando vengono da noi, alcuni provocatoriamente si portano qualcosa. E tua moglie come reagisce? E fa buon viso a cattivo gioco, nel senso, a casa nostra non trovi nemmeno il parmigiano. Di conseguenza, se uno lo ama sulla pasta, se lo deve portare. E alla festa del matrimonio c'era qualcuno che spacciava le bufale. Sì, sì, il mio testimone, peraltro, insomma, che aveva portato 10 kg di bufale e le dava di nascosto, insomma. E vabbè, questo è stato il primo motivo di potenziale divorzio, insomma, della nostra vita. Possiamo dire allora che Fausto Brizzi è vegittico più che vegano? Sono vegittico. Ho sposato una vegana, ma sono vegittico. Questo sarà il sottotitolo. E questo era Fausto Brizzi con Ho sposato una vegana, una storia vera purtroppo, pubblicato da Einaudi. Fausto Brizzi, l'abbiamo detto, regista per esempio famoso per Notte prima degli esami, da non confondere invece con Enrico Brizzi, che è noto per il libro degli anni 90 Jack Frusciante, è uscito dal gruppo. Comunque, insomma, questo Ho sposato una vegana è un libricino veramente molto molto divertente. E prima di chiudere, come sempre, vi ricordo che online sul sito del Sole 24 Ore ogni martedì c'è una nuova puntata di Autori, le strade della narrazione. Si tratta di un video in cui uno scrittore legge un piccolo brano del suo libro e poi lo racconta a modo suo. A partire da martedì 29 marzo ci sarà online la puntata con Chicca Gagliardo. Il libro si intitola Il poeta dell'aria, pubblicato dalla casa editrice H. Sentiamone un breve estratto. Sono appollaiato sul bordo di un cornicione. Ti sto scrivendo su un quaderno che tengo appoggiato sulle ginocchia, magre. Sollevo la testa. La visione dell'aria è vertiginosa. Scrivo per te che mi stai leggendo, riesco a vedere i tuoi occhi. Scrivo perché voglio insegnarti l'arte del volo, la consistenza del vuoto e dell'invisibile, la poetica dell'aria. Avrò bisogno dei tuoi occhi, ricordalo. Ci muoveremo nel vuoto e senza sguardo si precipita. Se vuoi seguirmi, butta a terra la forza di gravità e rendi il tuo sguardo sottile quanto un filo di vento. Ti sarà necessario per osservare il velo delle nuvole, la spirale dei respiri, musiche, silenzi. Attraverseremo gli strati più profondi dell'aria. Ti farò vedere come si arriva a scrivere nel cielo con il corpo. Ed è tutto per questa puntata, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Come sempre vi ricordo che trovate tutte le puntate su podcast, quindi se non l'ascoltate alle 6.30 o alle 22 del sabato potete ascoltare le puntate naturalmente comodamente nell'orario che preferite. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona lettura da Alessandra Tedesco.